Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:02 in questo istante, buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore che è assieme al mio ormai fedele, fedelissimo compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Maurizio Calzavara, siamo qui a condurre questa ennesima, diciamo così, intervista live in questa serata dalle 21 alle 22:30 in questa fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, e questa è la vostra emittente che si chiama per l'appunto Blu Radio Veneto. Questa sera avremo un cantautore emiliano, però ne parliamo tra qualche istante. Prima i consueti dati tecnici, e allora questa è, dicevo, Blu Radio Veneto. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it, oppure le nostre due pagine su Facebook che sono semplicemente Blu Radio Veneto, oppure l'altra interamente dedicata alla musica rock gestita dal nostro direttore artistico, che salutiamo, Alberto Prisco, che sarà subito dopo di noi con la sua classifica e il suo programma di musica rock. Dicevo, l'altra pagina si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave. Mentre per quanto riguarda i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli SMS è il 346 23 20 033. Oggi è una serata molto importante per il sottoscritto, perché ho un carissimo amico, ne sono particolarmente onorato, contento, fiero di avere in studio Alberto Despini. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti, siamo qui nel Veneto solo per voi, e non solo per voi, anche per chi ci ascolta chiaramente. Buonasera a tutti. Buonasera Alberto. Ma non è solo, si è fatto accompagnare, certo, anche dalla Serena Zaniboni, che è una splendida voce, poi la sentiremo. Ciao Serena. Buonasera a tutti, ciao. Ciao, benvenuta ciao, anche a te. Allora Alberto, grazie innanzitutto di aver accettato l'invito, e quindi benvenuto a Blu Radio Veneto, ci fa onore di averti qui. Grazie a voi di avermi contattato, conosciuto a distanza, poi adesso vedremo insomma se posso farmi valere. Ma certamente, tu hai un rock nel sangue, chi ha il rock nel sangue si fa sempre valere, indubbiamente. Molto bene. Questo... Tu sei un'istituzione a Bologna quasi, ti conoscono tutti. Quello è vero, a volte il fatto che ti conoscono tutti non sempre è una bella cosa, però si spera che comunque le persone ne parlino bene. Ecco. Ma certo, anche perché abbiamo notato che scrivi dappertutto, insomma, per tantissimi artisti. Quello sì, mi fa molto piacere, spero che sia di essere solo all'inizio, perché quello che vorrei fare nella vita, ecco, è proprio quello, al di là di cantare live, che è una cosa che mi fa piacere perché purga tutta la realtà che ti circonda e non ti piace, però penso proprio che scrivere per altri, sentire la mia musica, le mie parole cantate da altri, è una delle esperienze più belle, più come sensazione, è la cosa più bella. Sì, abbiamo visto che hai un curriculum artistico variegato, è copioso, molto copioso nel senso positivo del termine, hai fatto di tutto, come ha detto giustamente Agostino, da cantautore chiaramente, ma sei attore, sei scrittore, hai partecipato alle colonne sonore, hai fatto di tutto. Ho fatto di tutto, chiaramente lo dico anche per, insomma, dal punto di vista della serietà e della professionalità, molte cose le ho fatte proprio perché volevo farle. E anche pur non sapendole fare, ecco, scusate il giro di parole, però non ho mai scritto cortometraggi, mi hanno chiesto delle collaborazioni per fare colonne sonore, ho fatto ad esempio la colonna sonora per un cortometraggio che si chiama Il bacio di Alice, certo, che ha girato un collega, un amico, Antonio Benedetto di Bologna, ho fatto l'attore in un musical che è stata una parafrasi dei Promessi Sposi, mi sono molto divertito, però ripeto, non avendo studiato per quello l'ho anche abbandonato perché è una bella esperienza, ma mi sento più bravo a fare altre cose, sinceramente. Indubbiamente. E poi una cosa volevo chiederti, te l'ho chiesto già a microfono spento, però a me interessava molto, alla tenera età di imparare il canto gregoriano in un coro di Modena, e questa è una cosa molto molto interessante per me. Esatto, diciamo che io ho iniziato a cantare da... Tutti dicono, io a 3 anni cantavo, e no, io mi facevo gli affari miei fino a 14, per non dire altre cose. Poi a un certo punto a scuola il maestro di terza media, mi ricordo, il maestro di musica, faceva fare delle canzoni, era l'unico un po' particolare, perché invece che fare suonare il flauto come tutti, che insomma è uno strumento che fa un po' pena, scusate perché suona il flauto, però cioè, potrebbero far suonare la chitarra, il piano, lo suonavamo il flauto, è una cosa orribile, però lui si dissociava e faceva cantare tutta la classe, quindi sentendo un po' le voci che erano in questa classe mi disse ti faccio cantare Caruso. Allora io dico vabbè, l'avevo sentita pochissimo ma sì, non la conoscevo abbastanza, quindi a casa cantavo questa canzone, avevo la voce un po' più meno potente, però chiaramente più alta. La continuavo a cantare a casa, mia madre mi odiava già. Però niente, vado alla fine diciamo dell'anno scolastico, vado a questa festa, canto e vinco il primo premio con questa canzone. Quindi ho forte di questo, torno a casa, dico: mamma, ho vinto, no? Quindi adesso, se io avessi un figlio, cioè, lo manderei a studiare, no? E mi disse: bene, hai vinto, cioè, poi rimettiti a studiare, anzi tra un po' iniziano le superiori, quindi, cioè, quindi non era, diciamo, dell'idea. E io sono finito a fare, perché avendo la voce potente mi hanno consigliato di cantare in una corale per affinare un po' le cose, la voce, le corde, e insomma è stata una bella esperienza, un po' pesante perché erano tutti ragazzi più grandi di me e si doveva imparare un po' la pronuncia, comunque qualcosa di latino, che io i miei studi non hanno questo background, no? Però insomma è stata un'esperienza dal punto di vista dell'orecchio fantastica, perché se hai un buon orecchio è difficile, anche puoi stonare, poi è chiaro che si stona tutti un po', perché siamo un po' tutti calanti come nella vita, no? Anche nella musica. Però penso, insomma, è una cosa che dal mio punto di vista, per quello che ti ho imparato a fare, mi è servita molto, sì. Ok, insomma, in poche parole, chi è Alberto De Spini, allora? Come ti definisci? Cosa ti definisce un cantautore? È una bella domanda. Sulla mia tomba vorrei che scrivesse: cioè, prendetevi appunti. Cioè, Agostino si stava toccando in questo momento. Infatti. Non cadere dalla sedia. No, volevo semplicemente dire, nella vita si fanno tante cose. Quello che per me è sempre stato importante sono le parole. E ci sono stati dei periodi della mia vita, posso dire tranquillamente, che non sono stato coerente, perché in tutte le cose, sentimentalmente, nella musica, nella famiglia, puoi dire delle cose molto belle e poi non le puoi rispettare, come fanno magari il 90% degli artisti italiani e non solo. Però ci sta questo momento, e ci sta il momento invece in cui riesci a essere, professionalmente parlando e anche nella vita, più coerente. In questo caso la parola mi è servita molto, perché butta fuori veramente tanto di quello che sei, e quello che scrivi sei, quello che canti sei, quello, certo, che suoni sei, ma la parola è veramente, rimane, ecco. Quindi io ho sempre scritto tantissimo fin da piccolo, e alcune cose facevano veramente schifo, si può dire. E l'altra sera con lei, a Serena, facevo sentire ho fatto sentire delle cose veramente vecchie, e per fare così, per raccontare una cosina carina, lo direte voi, io ho fumato 5 anni, poi vabbè, fortunatamente nel 99 ho smesso, ho fumato dai 18 ai 23. E per arrivare a smettere, visto che non riuscivo, ho detto: devo fumare qualcosa che mi faccia veramente schifo. E ho comprato un pacchetto di sigarette, che non posso dire, esatto, perché è meglio di no. Esatto. E c'era questa marca che faceva veramente pena e mi ha aiutato a smettere. Io cosa ho fatto? Per suggellare il momento ho scritto un brano che si chiama come questo, lo dirò a luci spente, come questo pacchetto di sigarette, questa marca, esatto. E l'ho fatto sentire a lei un pezzo, era una cosa veramente orribile, cioè quel blues finto che metti le parole a caso, tanto il giro è sempre quello. È sempre quello. Poi chiaramente nella vita si va avanti, ci si specializza, e ho portato avanti questo, quindi il cantautorato, più che altro il donare agli altri qualcosa che potrebbe non essere utile solo a te, perché a volte ti vengono delle ispirazioni proprio nello scrivere che ti rendi conto che tu non le canterai mai perché non ti si addicono, però se non sei orgoglioso e dici: magari questo può servire a qualcun altro in questo momento, in quel momento, scusa, parte proprio, cioè cresci, l'ottica cambia e capisci che quello che puoi fare può servire a qualcun altro. Certo. È come un mercatino dell'usato, no? Che quello che magari non serve a te può servire a qualcun altro. Certo, certo. Io direi di far ascoltare adesso chi è, sì, esatto, musicalmente parlando, Alberto De Spini. Allora, cosa hai scelto da questo tuo disco, diciamo vecchio, tra virgolette, esatto, perché ti stai preparando con il nuovo? È comunque vecchio, perché sono due anni, e questo brano che andremo ad ascoltare si chiama Sogna Piano, è un brano che ho scritto per Emergency, per quello che hanno fatto, che stanno facendo, dopo aver conosciuto Gino Strada, e ho avuto modo di conoscerlo bene, insomma è stato un grande uomo, veramente una bella persona. E mi ha regalato Pappagalli Verdi, il libro. Io da quel libro ho cercato di immaginare, perché sono un po' così visionario, ho cercato di immaginare la situazione, ho scritto questo brano che, se non lo sai, magari non si capisce bene che parla di guerra, però più che altro parla della loro attività, di quello che di umano possono portare in posti disumani. Ok, ascoltiamo. infami. Io sono ancora qui a guarirti così. Ora riposati un po' e sogna piano, però se non ti Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo partiti alla grande, Maurizio. Sì, rock decisamente. Subito. Beh, rock. Qualcuno ha scritto, un critico ha scritto giustamente che c'è un po' di marcia cadenzata, un po' marcia militare. Cosa dici? Sei d'accordo su questa definizione? Assolutamente sì. Doveva iniziare così il brano per dare un po' l'ambient sulla guerra. Sulla guerra, esattamente. Esatto. Quello doveva essere. Come immagine. Poi, sai, sono degli argomenti un po' caldi dal punto di vista appunto di scelte, perché rischi di entrare un po' così nello scontato, no? Mm-hmm. Nello scontato, perché magari l'hanno fatto tutti, quindi devi trattarlo un po' leggero ma non troppo, con una chiave di lettura. Io magari scrivo forse un po' in modo più poetico, non è molto diretta. Mi hanno fatto questo tipo di osservazione. Critica, di osservazione. No, critica, osservazione. Osservazione, esatto. Critica positiva. Esatto, dai. Che in effetti è vero, però non è proprio, cioè è una scelta anche, però io scrivo proprio così, quindi è chiaro che se uno dice il suo stile, quello a me va bene. Non è magari la sensazione che ti dà è quella, come può essere una poesia, però non te la spiega subito. Questo è quello che insomma. E quando presentavi Kurt Cobain, eri diretto? Quando presentavi Kurt Cobain in Nirvana? All'epoca. Quando cantavo in Nirvana, avevi i capelli abbastanza lunghi? Sì, nel lontano 92, 93, 94, così avevo i capelli molto più lunghi. Facciamo sempre battute sui capelli. Ne avevo anche proprio sopra. Adesso ne hai pochi. Era tutto un altro discorso, c'era anche chi usciva per non ascoltare quel tipo di musica e c'era chi invece restava, esatto. Ma con quello hai fatto le ossa, come si dice? Assolutamente, no, dal punto di vista dei palchi, importanti o meno importanti, che sono, ripeto, tutti importanti, questo è un consiglio che do anche a 5 persone, ai ragazzi, o 2000 persone, non vuol dire niente. Assolutamente, è proprio il tipo di esperienza e con che carisma vai fuori e in che modo scegli di fare proprio la serata, questo assolutamente. Esattamente, una cosa. Vedi Agostino, fare suonare su tutti i palchi. Serena, cosa dici? Facciamo parlare anche la Serena. Facciamo parlare un po' a Serena, esatto. Che anche lei ne ha fatti, nonostante che, diciamo, l'età che è più giovane, ne ha fatti anche lei. Ma hai suonato anche sono te? Più giovane. Hai cantato anche te? Sì, io canto, non suono, sto approfondendo, diciamo, lo studio della musica. Adesso mi diletto con le percussioni con lui. Dopo lo accompagno, con qualche lo accompagno, sì, sì, sicuramente il palco è importante, ma è anche proprio importante il pathos personale di ognuno con cui va. Si può anche suonare in parrocchio, comunque al bar, ovunque, niente. L'importante è proprio lo spirito. Certo, e quello che si comunica è la forza della musica, è quello. Esatto. Sempre che non ci sia un bar in parrocchia, che lì allora... fai presto, perché finisci le due cose. Sì, sia comune a tutto quanto. Alberto, ci fai qualcosa dal vivo adesso? Assolutamente, sì, sì, sì. Il cabaret è finito adesso. Non è un cabaret, è una è cercare di capire chi sei. Esatto. E sono anche questo, ecco. Alcune ecco, ti ne dico un'altra, perché sennò dopo D'Agostino dice dovete cantare, sei venuto qua a cantare, parli e va, perché a me piace molto parlare. Sono stato ospite tante volte appunto Radio Bologna ed è veramente mi piace fare radio. E niente, cosa vuol dire? Visto che ne dico tante, magari poi uno si dimentica anche. Una sera al Festival delle Arti organizzato da Mingardi a Bologna il primo anno io andai con due brani miei e presentavano i Gemelli Ruggeri. Che saluto Eraldo, che conosco bene, che non so se ci sta ascoltando. Niente, quella sera io feci una battuta e loro per fare la gag uscirono dal palco. Hanno buttato, non mi ricordo se lui o l'altro, hanno buttato per terra il diciamo appunto la cartelletta così, l'ha buttata per terra, sono usciti per fare la gara così, sono rimasto così e uno mi ha detto è meglio che fai cabaret invece che cantare. Ecco. Cosa quindi ci fai ascoltare adesso? Allora, questo è un inedito, voglio iniziare con un inedito che insomma anche per ringraziare per il vostro invito, insomma per ringraziare voi due che ci avete ospitato qui stasera. Sarà presente nel prossimo album che registrerò con Marco Dirani, che è un amico prezioso, arrangiatore anche insomma dei miei brani e non solo. E il brano si chiama Dentro ai tuoi occhi. Ok. Fermati un po', spogliati ancora e non chiedermi mai di non guardarti così. Cado e rimango così, dentro ai tuoi occhi così. Allontano le regole con dolci attenzioni e ti asciugo le lacrime, voglio salvarti così. Cado e rimango così, dentro ai tuoi occhi così. Fermati un po' sulla mia pelle, non muoverti mai, tu mi accarezzi così, con i tuoi occhi così, come rugiada così. Thank you. ai tuoi occhi. Dentro ai tuoi occhi. Canzone intimistica. Molto intima, sì, sì, questa è molto intima. Molto bella, molto bella, intima. L'arrangiamento, posso già dirvi qualcosa, sarà un po' sui Coldplay, ecco, un po' tirata così, bella, però sì. La Serena dava un tocco di percussivo, infatti, leggermente sentito. Percussivo. Ho sentito, perfetto, sì, sì, sì. Leggermente percussivo. No, esattamente, no, andava bene così, un pezzo romantico, un pezzo che ha un certo pathos, un certo feeling, e lo inserirai, che traccia del disco? Allora, questa direi, di solito le tracce intime le metto tra i 7 e il 9, così, non subito. Perché all'inizio di solito fai una traccia più forte, più tirata, come si dice. E come in tutti gli album, dagli U2 ai Pink Floyd o altro che ricordi, anche Jeff Buckley, così, la terza è sempre, non si sa perché, cioè, poi ci sono studi psicologici anche su questo, la terza è sempre la traccia che dovrebbe trascinare un po' tutto quanto. Tutto il disco. Di solito, poi non si sa perché. Io infatti sono stato, come prima esperienza, molto intelligente, ho messo quella che non, a cui non piace, cioè, a nessuno. So. Però quella che piace meno è il numero 3, la mia. Perfetto. Il colore della fine si chiama, però bene così. Vabbè, non piace meno, insomma. Bisogna vedere se non piace meno. No, beh, dico, no, è anche quella molto intimista, molto particolare. Arriva meno, ecco. Magari se persone ti vengono ad ascoltare, se fai canzoni un po' particolari, o uno ti conosce o ti vuole scoprire, la terza è che uno passa di lì e magari insomma non ti ascolta. Allora, Alberto, rispetto a questo disco che è stato pubblicato, quello nuovo aveva una tendenza a rallentare il ritmo oppure a diversificare il ritmo? No, ritmo o dinamica sarà sempre, diciamo, incalzante, possono esserci dei brani più ballad così. Diciamo che come arrangiamento vorrei cercare di ancora di più andare sul moderno, quindi sul pop rock. Sì. Perché chiaramente un po' di elettronica ci vuole un qualcosa di particolare. L'importante è che non perdere di vista l'interesse che ho, la direzione che voglio tenere per quanto riguarda la scrittura dei testi, e la musica deve essere più, forse deve sposarsi meglio con appunto quei testi, quindi certo, magari il primo album è stato qualcosa di più ego, che ha buttato fuori più il mio ego, nel senso che le chitarre, se sentite in alcuni tutti hanno un solo, così in alcuni brani sono meno morbide e scelte dure, diciamo, abbastanza pesanti, sì, spigolose, esatto, perché a me piacevano gruppi che suonavano con questi suoni, con questa chitarra, con questi fraseggi. Però ripeto, nella vita si può cambiare, si può crescere, non vuol dire che non segui più certi gruppi, però credo anche che un po' il compromesso per farsi ascoltare di più, sì, perché sennò se vuoi suonare per te stesso puoi stare anche su un monte, quindi la gente che dice io non compro i libri non si deve poi stupire se non gli altri non leggono quello che scrive lui. Certo, giusto, c'è sempre il giro, e quindi credo sia giusto mettersi sempre in mezzo e dire io faccio un compromesso perché qualcuno mi deve ascoltare, come stasera in radio, e allo stesso tempo posso mettere qualcosina che mi piace, però deve piacere anche agli altri, perché il ruolo di un artista, un pittore, un cantante è quello che deve entrare proprio nelle case degli italiani. Certo, ma è giusto quello che dici, perché è troppo difficile, troppo complesso, troppo di elite. Non va bene. Magari puoi piacere a quelli che stanno ricercando qualcosa di particolare, di intimo, però i rischi di cadere anche lì in cose già viste, già sentite. Quindi io credo che se tu sei particolare veramente, cioè arrivi, da qualche parte arrivi, poi devi trovare tu il canale giusto. Quindi se la musica è il canale che ti può dare il compromesso per arrivare, io cerco di mantenere però i testi non scontati, non rime baciate. Quello è solito che qualche volta si usa. Qualche volta si usa, esatto. Alberto, poc'anzi hai detto che c'è sempre qualcuno che ci sta ascoltando, giusto? Io so che tu hai un vasto pubblico, cioè molta gente che ti segue nei tuoi concerti, ma anche radiofonicamente parlando. Noi come radio spesso e volentieri facciamo ascoltare un ascoltatore che vuol fare una domanda o un qualcosa all'artista, che o ce lo scrivono in SMS oppure qualche volta lo facciamo anche in diretta. C'è una persona che vorrebbe cantarti una canzone. Ah, sentiamo. Posso immaginare? Pronto? Tu porta via l'immagine che resta. Ma l'egocentrismo sale da Lavello a Bologna e fino ad arrivare su a Padova. Buonasera Silvia. Ciao Alberto. Ciao Silvia. Sei una grande, grazie della chiamata, grazie per aver chiamato, le faremo sapere, può mandare il curriculum a info@radiopico. Agostino aiutami, ti prego. Sì, sì. L'idea è stata mia Alberto, perché so che tu hai scritto metà del disco di Silvia, praticamente quello che ha fatto lei. Quasi. No, tre canzoni, insomma, comunque no, è stata carina per quello che dicevamo prima, il connubio anche degli artisti, che ci sta che ci sia anche dall'altra parte una persona che dica certo, mi piace, gradisco. Io devo essere sincero fino in fondo, se tu sei arrivato qui, al 99,9% è merito di Silvia. E allora la ringrazio. Perché lei che mi ha fatto il tuo nome, mi ha detto guarda che è un paroliere eccezionale, infatti hai scritto delle bellissime canzoni. E in più è anche un bravissimo autore. Poi allora io ti ho cercato, seguito, eccetera, ti ho fatto arrivare il disco e ci fatti. Grazie Silvia, allora pubblicamente. Prego, posso aggiungere una cosa? Certo. Comunque, legata al discorso che hai fatto tu prima, no? Sulla la traccia numero 3 del disco, neanche a farla apposta nel mio disco, la traccia numero 3 che dovrebbe essere quella che insomma, tira, dovrebbe trascinare, si chiama Ovvio ed è un brano appunto di Alberto. Ma di chi sarà mai? Grande! Incluso nei suoi figli d'altro canto, perciò ecco diciamo che... Grazie. Direi che troppo buono. Quello che hai detto non è stata una cosa casuale, tra l'altro lì in studio mi hanno detto Agostino e Maurizio che saluto. Grazie. Che è uno ciao, dei singoli potenziali, sì, quindi insomma direi che abbiamo fatto centro. Beh, ma l'hai sentito? Certo che sì. Ti piace? L'hanno sentito, sì. Ti piace? Pronto? Io non vi sento. Ci senti adesso? Ecco, adesso sì. Ci senti? Perfetto, sì, ok. Ci senti no, Silvia? Certo, sì. Sì, Alberto diceva... Ma parlate anche con me, anch'io. Sì. Alberto diceva se ti è piaciuto, questo volessi dire. Sapere. Se mi è piaciuto cosa? Il pezzo. Beh, secondo te certo che mi è piaciuto. Ma no, io non ho dubbi. Lo ricanteremo magari anche qua così. Sì. Io non ho dubbi su Alberto, cioè ritengo insomma quello che penso, lo già sa però lo ribadisco, cioè penso che sia uno dei cantautori più bravi che io conosca, quindi cioè, sono veramente fiera e anche sono molto onorata del fatto che lui mi abbia donato alcune sue emozioni in parola, quindi sono veramente contenta. Maurizio ha un fazzoletto per Alberto. Che grazie. Sì, sì, sì. Sì, ne abbiamo più di uno qua. Pacchetto. Grazie Silvia, grazie davvero. A voi, un saluto a tutti davvero Silvia. Speriamo, grazie, speriamo di vederci presto esatto. Questo qua tu mi hai chiamato perché pubblicamente mi sgridi anche. Esatto. Bravo. È vero, quello arriva dopo. In privato ti sgrido. Esatto, ci sta. Silvia, ti ringrazio della disponibilità. Grazie, a voi, grazie a Silvia. Voi. Carini come sempre, grazie. Ciao, grazie bella. A te, Silvia. Ciao, ragazzi. È stata un'idea mia, Alberto. Hai fatto bene. Cioè, il Sant'Agostino ha colpito ancora. A me piace, sai, far saltare. Le confessioni di Agostino sono queste. Esatto, sì, sono proprio le confessioni di Agostino. No, è bello sapere se ci sono degli amici che hai nel cuore e lei ci teneva. No, è stato carino, infatti è stato carino. Siete stati carini. E no, questo si rifà al discorso del gruppo, di dare qualcosa agli altri, come tu hai detto. Cioè, non essere solo il cantautore per te stesso, dare qualcosa. Quando sentivi che qualche pezzo musicalmente non ti andava di cantare, giustamente cercavi di donare alle persone che musicalmente secondo te erano adatte a farlo. Bravissimo Maurizio, perfetto. Quello è importante, non è mica semplice trovare una persona come te che ha questa predisposizione, perché tutti quanti in Italia all'estero no, ma in Italia cercano sempre di coltivare il proprio orticello e è difficile di andare oltre, mentre all'estero non hanno questa predisposizione. Tutti continuano gli orti all'estero, nel senso che non ci sono predisposizioni, non ci sono barriere per frequentare anche gli altri artisti. È vero, verissimo. Invece in Italia non si sa per qual motivo, anche se adesso si sta muovendo qualcosa, soprattutto negli indie, nelle figure più emergenti c'è questo discorso. Però c'è questo sempre, questa volontà di arretrare, di fare sempre da solo. non va bene. L'individualismo è la caratteristica della nostra società, ci sarà purtroppo sempre, adesso ancora di più. Ma musicalmente non deve essere così, perché la musica è generale, bravo, questo, è totale. Però sai cosa? Che vabbè, io l'ho sempre fatto, ho sempre provato a farlo. È chiaro che, ripeto, quello che tu puoi perdere, un altro può trovare. Quindi certo, dovrebbe essere questa condivisione, chiudi il giro della cosa principale. Però non sempre funziona così, perché capita che quando si trovi dall'altra parte persone come Silvia, Serena, poi saluto anche Federica Sara, che è un'altra artista per cui ho scritto, e vai, altre persone, Vincenzo Pastano, cioè, che è il chitarrista di Luca Carbone. Lo saluto anch'io, Vincenzo, dovrebbe venire qui anche lui. Grandissimo, anche per lui ho scritto altre due canzoni anche per l'album vecchio. Gli Horizon, grande, sì, Horizon, gli Horizon, scusa. Il grande Tommy Stanzani e Tommaso Vellini, anche lui. Sì. Max Messina. E, cosa succede? Che se trovi dall'altra parte persone così, che quindi si parla di umano e si va oltre la musica, allora è come stiamo dicendo a seduta stante. Se trovi persone che invece possono usare per altri fini, si ferma tutto. Si ferma un po'. Quindi certo, all'inizio magari non sei così onorato della scelta, però diciamo che se ce l'hai, vuoi perdoni, chiudi gli occhi e li riapri il giorno dopo. E vai avanti, perché se hai fatto così, se il carattere è quello, non ci puoi fare niente. Non si cambia assolutamente. Adesso invece cambiamo, invece di parlare, suoniamo o meglio cosa? Suoni, o meglio canti, oppure fai ascoltare dal disco, quello che vuoi tu. Allora, io farei un brano che ne abbiamo parlato poc'anzi, che riguarda il cortometraggio Il bacio di Alice di Antonio Benedetto, e si chiama Il giro di idee. È una canzone che è partito da, è un inedito, anche questo che sarà, la chiamo inedito perché lo conoscono già tutti, però è un inedito perché non è ancora stato incluso in nessun tipo di album, che sarà appunto nel prossimo. E, l'ho eseguito per Sanremo 2008, per Sanremo Giovani, che siamo arrivati in finale ma non siamo passati oltre, però questa canzone è piaciuta abbastanza. In sostanza era una poesia che poi dopo ho musicato, sempre mia, che è diventato un brano, e parla di appunto delle idee che veramente ci girano in testa, e a volte facciamo l'errore di far girare troppo le idee, poco la realtà. Quindi si conoscono persone e si crede che questa persona sia in un modo, poi ti rendi conto con un'accezione positiva o negativa del post, che lì bisogna vedere come la sorpresa, però ti accorgi che è sempre diverso. Quindi bisogna stare attenti magari a dare il primo giudizio. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Lontana dal giro delle mie idee, dal silenzio difeso coi denti, rimanevi così appesa come su un'altalena, ti spostavi da un sì a un do, ma non ti sei mai fermata, non ti sei mai voltata. Sei sulla strada più dritta che ho in mente, cammini sola, ti volti a metà, riparti con passo sottile, accompagni tutti i bambini a scuola e i loro padri in fabbrica, ma lasci fuori me. Credi davvero che siano solo idee quelle che girano tra noi? Ti sto cercando in me, mi stai trovando in te. Giro di idee confonde ed il vento soffia già più veloce. Qualcuno esce dal cerchio, qualcun altro fortunato ti troverà, qualcun altro sfortunato ti riperderà. Credi davvero che siano solo idee quelle che girano tra noi? Ti sto cercando in me, mi stai trovando in te. Credi davvero che siano solo idee quelle che girano tra noi? Ti sto cercando in te, mi stai trovando in te. Che bella, molto bella, bella sì, anche questa. Un'altra grande ballata questa qua, bellissima, mi piace molto. Grazie, grazie, molto gentili. Questa serviva, come abbiamo ripetuto prima, come colonna, come, come colonna sonora di questo, questo film praticamente. Sì, un cortometraggio, che è stato girato a Bologna, in un bar che si chiama Macondo in Via del Pratello. Tanto per fare pubblicità, no, beh, tanto questo non è, non è indipendente. Perfetto. Mi ricordo anche l'anno successivo, che però questo non c'è traccia, nel senso che ce l'ho solo io e non vi dirò mai anche dov'è. Ho fatto anche l'attore per un video. Ecco, ci fermiamo. Tu hai fatto l'attore per un video, hai fatto un cortometraggio e anche sei uno scrittore. Ecco, attenzione, attenzione, questo è importante. È molto importante quello che scrivi, perché quello che scrivi spesso e volentieri prendi lo spunto e poi fai il quadro musicale. Assolutamente. Come mai anche scrittore, Alberto? Allora, diciamo che... La ringrazio per la domanda, Maurizio. Amici ascoltatori, guarda... È giusto che fai cabaret. Sì, sì, fa un po' di qua, un po' di là, perché la mia mente un po' così, va un po' dappertutto. Ogni tanto però mi fermo anche. Crescendo ho iniziato a fermarmi, qualcuno dice no, ma... Non mi fermerò mai, no, esatto, ma quando mai? No, dimmi allora. No, sinceramente io ho iniziato prima a scrivere che a comporre musica. E quindi ho sempre fatto dei raccontini, delle cosine anche a scuola. E avevo una professoressa di italiano alle superiori, molto caratteristica, perché mi dava sempre dal 5 al 6. Ah, perfetto. Sempre. E ho capito dopo perché, perché magari credeva in me, voleva farmi... Però sai... È dura, magari con un carattere forse più debole avrei fatto ancora più fatica, però io continuavo ad andare, dicevo, boh, mi dà sempre dal 5 al 6, facevo, mi sembrava di scrivere anche delle cose abbastanza importanti, poi andavo a rivisitare delle poesie, prose, non prose, facevo della roba che ho. E ho letto, questo mi ha un po' aiutato, ho letto veramente tanti libri di tutti i tipi, anche cose che non mi piacevano, per capire cosa legge anche la gente, no, in generale. E anche alle superiori mi ricordo leggevo veramente tanto. La sorpresa è stata questa: in quinta superiore ci fu la commissione esterna, non quella interna, quindi la professoressa di italiano non era presente, o almeno era presente ma fuori, non era in carico in quel momento. E io feci una prosa, comunque un tema su Cesare Pavese, La luna e i falò, sì, che è un classico, è un classico Pavese. Di Pavese, e io l'ho proprio personalizzato ai massimi livelli, nel senso che avevo scritto più o meno la storia come poteva essere, poi dopo ho iniziato a scrivere delle cose mie, ho fatto dei grandi viaggi, dei voli pindarici, scusate, e ho preso 8 bene, in quinta superiore, quindi ho capito, ma forse ha fatto bene a fare così, oppure alla fine ti stimolava a continuazione, mi stimolava veramente tanto. Io ho bisogno di questo, questo lo trovo nei libri, nella gente che incontro, lo trovo nella musica, e mi sento veramente inquieto in modo positivo da quel punto di vista, perché mi entusiasmo per poco, e magari rido e piango per poco, quindi magari puoi sembrare anche un po' stupido, però credo che se ti rimane questo cuore da bimbo riesci a notare ancora piccole cose che sfuggono altrimenti. Per cui niente, questo per arrivare a dire che ho sempre scritto tantissimo, e al di là delle canzoni, molte canzoni partono molto dalle parole, altre e riesco a scrivere insieme, mi sveglio la mattina con proprio una melodia in testa, butto giù qualcosa, riesco a fare un brano. Sei molto prolifico tu. Sì, sì, sì. No, da quel punto di vista lì Ma è una cosa che ti nasce spontaneamente così? Sì, sì, la sento, è come quando non puoi fare a meno di parlare, di dire qualcosa, da quel punto di vista. È una cosa però che nasce dalla testa e dal cuore insieme e devi buttarla fuori. Quindi mi capita anche durante, diciamo, in luoghi, in momenti inopportuni, di andare a registrare sul telefono qualcosa che ti rimane in testa, qualche melodia. E niente, la butto giù. A volte immagino proprio da questa melodia cosa può far apparire, che immagine fa apparire, e lì allora dopo trovi il contesto e la sceneggiatura piuttosto che l'azione per buttarla giù in parole. Cioè, numericamente ti sei mai posto la domanda quante ne hai scritte? Numericamente no, più di 1000 sicuro. Cavolo, sono tante. Più di 1000 sicuro. Beh, depositate in sé e altro, chiaramente saranno 300, però. Parecchie depositate insieme a 300, quindi non è mica, sì, sì, non è mica un... No, perché ho iniziato poi nel 2000, quindi 2000, sì. 2001 a credere in me, o più o meno, più che altro a credere che qualcosa di mio poteva anche piacere a qualcun altro, perché io ho sempre scritto e lasciato nel cassetto. E come fai a dividerti mentalmente? Questo è un pezzo che secondo me potrebbe andare, non so, a Silvia, ecco, faccio un esempio, e questo è un pezzo che potrebbe andare ad Alberto. Come ti fai a dividere mentalmente? Allora, bella domanda, questa, ti sei preparato? Diciamo che all'inizio c'è sempre un po' di gelosia, esatto. E anche questo fa parte dell'umanità. Fa parte dell'umanità e deve rimanere per mantenerti snello e senza pancia, perché sei sempre in adrenalina. Però ti dico, all'inizio c'è la gelosia e dici chissà come potrebbe cantarla questa persona. E lì puoi pensare, la tieni lì a decantare ogni canzone, ricordando frasi celebri di Gianluca Fantelli, che se sta ascoltando saluto, che è il nostro caro amico. Anche lui mi disse, io quando scrivo, che anche lui è un cantautore, dopo magari ne parliamo due secondi, certo. Anche lui quando scrive lascia decantare il brano, come quando apri una bottiglia di vino, come quando devi conoscere una persona, il tempo, devi dare il giusto tempo per le cose. E anch'io faccio così, nel senso che ci sono cose che vengono fuori e capisci subito che per te sono una bomba, le fai, sono tue. Altre sono in mezzo, le lasci lì, aggiungi qualcosa e nell'orecchio sento qualcosa che non è mio, cioè qualche voce femminile o maschile che non appartiene a me. Non li fai cantare la Serena? Le faccio, no, alcune, infatti dopo ne facciamo anche una che di cui io ho scritto la musica e lei le parole, quindi sentite anche la sua voce. Non voglio fare l'egocentrico per un'ora e mezza. Però no, ritornando. No, è importante questo. Sì, ritornando al discorso di prima. Quando ho capito veramente, io sono cresciuto musicalmente quando ho capito che quello che facevo poteva non essere solo mio. Questo è io mi sono svegliato e ho detto: ma perché devo tenere così con orgoglio, con sospetto, in un cassetto che magari nessuno leggerà mai? Sono passati i tempi che magari ti scoprono morto con 6 bottiglie di whisky. E poi magari dicono diventi famoso perché hai scritto questi pezzi, cioè, certo. Adesso la gente non gliene frega più niente, cioè, ce ne sono tanti altri che sono ancora vivi che scrivono, quindi fanno forse più notizie loro. Per cui niente, mi sono concentrato in questo e io non potrei non scrivere, nel senso che è una cosa più forte di me. A volte possono non esserci le melodie idonee, ma io scrivo sempre, qualsiasi cosa, qualsiasi persona che incontro, ho dei pensieri, degli aforismi, dei proverbi, qualsiasi cosa io la butto giù e a volte rimangono poesie, a volte rimane una frase, a volte una frase che tu dici può essere captata da qualcuno una serata, te la trovi il giorno dopo su Facebook in bacheca e magari non è che cambi la serata quella persona, però dice sai che nessuno mi aveva fatto capire mai questa cosa, quindi ti scopri magari l'illuminista del nuovo millennio per 2 minuti, però a me fa molto piacere. E permetti di salutare un momento la Martina che si sta ascoltando da Mestre, si sta ascoltando in questo momento, quindi ciao Martina, salutiamo da Martina. Okay. Ciao Martina. Ciao Martina. E niente, poi ritornando appunto alla musica. Io direi che possiamo fare un altro, tanto iniziamo così, io farei, se ancora magari in linea Silvia, possiamo fare Ovvio, che è il brano che lei ha messo anche nel suo album, che ha reinterpretato. Beh, ci sente sicuramente. Sì, sì, sta ascoltando l'intervista, te lo garantisco. Molto bene. Allora fai ascoltare quella che hai scritto per Silvia, giusto? Esatto, che è contenuto sia nel mio album che nel suo album, chiaramente. Ok. Okay. Thank you. ti sveglierò piano, dolce donna mia. Questo tempo è poco, ma lo farò bastare per sentire il tuo nome. Nella notte calda troverai la via per piacermi adesso, per avermi sempre e sentire ancora. Che ci sei, che ci sei. Limpida la notte va, limpida sicuramente c'è un po' di libertà. Possibilità, un po' di libertà, una possibilità. Vento, dammi la parte migliore di lei e poi lento fammi dormire. Credo che Silvia stia facendo un po' di come dire, commozione, Maurizio. Decisamente, perché è bello sentire la versione anche dell'autore, che di solito dà una colorazione particolare, è giusto che sia così, anche se il pezzo poi l'ha scritto, l'hai dato a Silvia, la colorazione dell'autore dà una sensazione leggermente diversa, perché Silvia la interpreta in una certa maniera e tu giustamente come autore la interpreti nella tua maniera, ed è giusto che sia così. È giustissimo. E poi la cosa più bella è veramente l'interpretazione anche di brani che possono essere anche cover o altre cose, certo. Perché poi è come se poi Silvia avesse fatto una cover, perché è un brano mio, esattamente, faccio niente, no? Esattamente. E quindi l'interpretazione ci sta veramente tutta quanta. A proposito di interpretazione, mi viene in mente una cosa, visto che tu hai citato gli U2. Quando il grande Uomo in Black, cioè Johnny Cash. Ah, Johnny Cash, ok. Cantò One, Bono disse all'epoca, la cantava meglio di me. La cantava meglio di me. La cantava meglio di me. Era stato più bravo di me. Quindi vuol dire che un interprete di un pezzo non suo può diventare, può cambiare il pezzo, può diventare suo. Johnny Cash ha scritto tanti pezzi, però One fatto da Johnny Cash era un'altra cosa, anche se One ha scritto Bono e la band. Certo, no, assolutamente. Poi trovi dei... Visto, ho citato U2 perché tu hai fatto anche le cose. Adoro U2, sì. Ho anche un piccolo tatuaggio sulla spalla degli U2. Ah, okay. Sì, cos'è che ti piace degli U2? Allora, adesso diciamo che più la continuità è... sono ormai un gruppone, però la mia ammirazione era appunto nei primi anni, nei primi album storici. Primi album, sì, fino, guarda, anche, anche a pop, anche a pop così, però comunque Cartoon Babies, sì. 90-91, quella parte lì, e poi... È tutta un'altra cosa rispetto adesso, chiaramente. Ripeto, anche loro, come anche altre grandissime band, hanno sposato il compromesso che dicevamo prima, che in proporzione credo che sia uguale nel nostro piccolo rispetto. Certo, più o meno. Perché sennò sono passati tanti anni. Sono passati anche molti anni, esatto. Esattamente. Se pensi che lui è un 60, quindi ha 51 anni. Esatto, sì. Ha 51 anni, i primi pezzi così inediti li fece a 19, quindi nel 79. Era un singolo. Era un singolo, poi parte 80, 81, Boy, tutti gli altri CD. Quindi no, la discografia loro la conosco molto bene. Adesso Agostino ha messo One sotto. e One è la traccia numero 3 di Acton Baby. Esatto, One, un pezzo meraviglioso, ha fatto storia anche nella versione Johnny Cash, quello è bello. Assolutamente, ma poi l'hanno cantata veramente tutti, l'ho sentita sputtanare dai Rem. Anche mi dispiace per i Rem, veramente l'hanno rovinato dal vivo, però dai, insomma, l'hanno cantata tutti, la canto anch'io, la cantiamo anche noi dal vivo ogni tanto con me, quindi. È un pezzo incredibile. A proposito di cover, ci fai quei 30 secondi che diceva Maurizio prima, ti aveva chiesto di Jeff Buckley, i 30 secondi, dopo facciamo quella che abbiamo detto dopo, però Jeff Buckley, onoriamo questo grandissimo musicista che ha fatto solo un disco, però un disco epocale, che si chiama Grease, quello che vuoi tu. Fai quello che pezzo che vuoi tu. Adesso la Serena sta giustamente, velocissimamente trovando il pezzo giusto. Il pezzo giusto, il momento giusto, direi che possiamo fare Alleluia, anche se non è di Jeff Buckley, che di lei è un arcone. Esatto, però è diventata sua. Però è diventata anche quella sua, perché come l'ha fatta lui, neanche Lisa. Possiamo dire, stasera ci citiamo tutti. Ok. Facciamo questi 30 secondi. Se mi ricordo gli accordi. I heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music. It goes on like the four, the fifth, the minor four, and the major layer, the buffer king composing Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Troppo buoni. No, posso dirti una cosa, Alberto? Ogni volta che sento Alleluia di Jeff Buckley, anche cantato da altri, mi vengono sempre dei brividi sul sentire. Sì, c'è poco da fare, è una cosa incredibile. Lui ha scritto solo un... ha cantato un pezzo di Leonard Cohen, però... Ce ne sono, oltre a Grease, c'è anche un altro, che adesso non viene, perché è una compilation in cui hai dei brani già visti in Grease, altri live, poi ce ne sono... Everybody Wants sì, You. Sì, ci sono altri dischi suoi, però era Grease, però era Grease, che il famoso disco che doveva poi fare, che purtroppo il Mississippi l'ha preso, non l'ha più fatto, però era Grease. Esatto. Ne parlavamo ieri sera, che lei mi chiedeva un po', perché ho letto qualche biografia sua, tutte anche un po' discordanti, non seguono tutti lo stesso filo logico, per, durante, non so, parlando della sua morte. Appunto. Certo, certo, non si è mai capito, lui si è gettato, si è buttato nel chissà, fiume. Però ma... è uno dei giovani, anche lui morto con le iniziali J, presente Jim Morrison, sì. James Dean, Janis Joplin, certo. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, c'erano tutte queste... queste J, e poi dobbiamo ricordare che era figlio di un grandissimo musicista. Suo papà era un altro Tim guru, Buckley, era Tim un guru Buckley, assoluto. Che non so se, cioè, sicuramente tu ne sai più di me. Leggevo appunto che lui non cantava, non voleva cantare perché non voleva assolutamente la comparazione col padre. È vero, è vero, è vero. E quindi cercava sempre di non seguire il padre, non andare ai concerti, di far tutt'altro, di lavorare nei bar, di fare qualsiasi altra è cosa. Vero. Fino a che qualcuno lo sentì e gli ha organizzato un concerto, suo padre andò a vederlo e ha detto è un po' meglio di me forse, però. Forse. Bene, saluti, bene. Saluti dalla provincia di Mantova, si chiama Miria, ti sta ascoltando. Miria è anche un bel nome, sì. Ciao Miria da Mantova. Senza la M finale, Miria. Miria. Sì, sì, sì, con l'Y, magari la seconda lettera l'Y. No. Adesso cosa ci fai? Allora, adesso cosa potremmo fare? Sì, devi citare quel allora, piccolo... Leggo una cosa. La stupidità di un uomo è la causa della stupidità di molti altri. Un'idea è un miracolo. È il coraggio con il quale continui a credere in quello che da sempre la tua mente custodisce, oltre il tuo stesso tempo terreno. L'idea è un'espressione di potere assoluto, un nuovo giorno, il tuo sole, la tua affermazione in un mondo di pensieri superficiali e smarriti. C'è solo una piccola distinzione da fare. Ci sono buone idee, certo, ma soprattutto ci sono delle idee molto cattive. Ma se serve davvero, si cambia idea. Che bello. Questa è mia ed è la prefazione di un racconto che si chiama L'idea, appunto. E che dopo ve lo lascio una copia qui, tanto si legge premiato, velocemente. Dobbiamo dirlo. Sì, ho ricevuto un premio come scritto inedito, come narrativa inedita, e mi ha fatto molto piacere. Questa ve la lascio, tanto sono veramente poche pagine, perché certo, era certo. Appunto, faceva parte dei racconti brevi come sezione di narrativa. E niente, questo per collegarci al discorso fatto in precedenza, che appunto mi piace. Sì, la molteplicità del tuo andare musicale, andare artistico, musicale. No, c'è una cosa che non so fare, non so disegnare. Anche se tutti dicono che possono fare, non so disegnare. E la qui presente Serena Riboni invece disegna benissimo. Disegna benissimo. No, a parte è proprio pittrice. È proprio la pittrice. Si può dire. Lei dipinge e quindi. Beh, insomma, ti potrà insegnare in ogni caso. Sì, lei dice che potrei imparare, io non ci credo perché veramente faccio veramente pena. Però, però lei dice di sì. Lei ci crede. Lei ci crede. E niente, guarda, collegandoci a questo, visto che siamo in zona Zaniboni Serena, lei ha scritto un brano che si chiama Condividere. Puoi bere qualcosa prima di se ti vergogni puoi bere qualcosa. No dai. Si chiama qua, hanno l'armadio dell'Alpino, potete venire a Blu Radio Veneto, hanno l'armadio dell'Alpino, quando uno non riesce a cantare o si trova un po' spaesato, beve qualcosa. Beve un po', sì. Così. C'era qualcuno che diceva, vuoi bere qualcosa? Sì. Bevi qualcosa, vuoi bere qualcosa? Sì. Stasera è la serata delle citazioni. Sì. Allora, okay. La canzone si chiama Condividere. Condividere. Le parole sono di Serena Zaniboni. L'ho scritta, diciamo che me l'ha musicata lui e mi ha anche aiutato ovviamente a metterla nei giusti ranghi, perché io scrivo molto più in modo, diciamo, disorganizzato, era una poesia, diciamo, siamo un po' simili, ci siamo conosciuti per questo, quindi musicalmente, professionalmente scrivo e lui mi ha musicato, quindi lo ringrazio e ti faccio questo omaggio. Molto bene. Gli occhi si perdono e poi ritornano con vestiti di carta nei giorni di festa. Vorrei sapere, vedere, non solo guardare. Le menti si attraggono, i pensieri si chiamano, e intanto il sole continua a scaldare. Vorrei riuscirti a toccare, vorrei somigliare a te. Sai cos'è? Che maledizione, la vita non la fermi mai. Come la musica, come gli occhi tuoi così incoscienti. E gli istinti che si svegliano e volano come farfalle. Intanto il sole continua a scaldare la pelle. Intanto il sole continua a scaldare la pelle. Intanto il sole continua a scaldare la pelle di tutta questa gente che ride o piange. Che ride e piange. Che ride e piange. Lascia il posto alle stelle. Che meraviglia. Bellissima, bellissima. Beh, il coretto, grazie. Il coro fra una voce maschile e una voce femminile è sempre da un certo sempre sempre bene, peso. Sì, sì. Io so bello, che sì. Mi odierai, ma lei c'ha una bella voce. No, ma lo so, no, ma lo so. Per quel discorso, per quel discorso che facevamo poc'anzi. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma guarda, la verità è la cosa più struggente a volte, quindi è sempre la più bella. Dubbiamente. Hai una bella voce, Serena, complimenti. Grazie. Ti aspettiamo col disco tuo, allora. Arriverà. Arriverà, arriverà, arriverà. Allora, sono le 22.05, stiamo cercando di conoscere un po' di più Alberto Despini, direttamente da Formigene, ma lui vive a Bologna, quindi ecco, la sua dischi, le sue, scusate, le sue canzoni, non solamente canzoni, ma anche cover, sta per far, come dire, debuttare, si può dire, il disco nuovo, quanto manca? Manca ancora qualcosina? Allora, le canzoni ci sono già tutte, manca una piccola, non diciamo... una grande parte di come si dice, di soldi, si può dire, cercavo di dire delle cose economiche. La parte più economica, insomma, la parte quella principale per arrivare in fondo al progetto. I brani ci sono già tutti, sarà suonato da musicisti che sanno il fatto loro, che si può dire sanno il fatto loro. Miseria, certo. Ti aspetta Michele? E quindi no. E quindi primo Marco Dirani, che abbiamo citato anche prima, e poi altri che appunto non si possono per ora dire, però dovrebbe essere una cosa molto bella, e sarà il prossimo anno, non so quando, ma sicuramente 2012. L'hai sentito anche tu, Maurizio, che ha detto che viene a presentarselo qua. Certamente, sì, certamente. Anche questa cosa l'abbiamo detta prima, definita prima, assolutamente, sarò lieto di farlo. E l'autoproduzione come il disco precedente? Sì, sì. Autoproduzione, certo. Per quello che parlavo della parte economica. Sì, no, la carta economica è pesante, lo so, però l'autoproduzione dà possibilità di giostrare. Bravo, esatto. Siamo però più autonomi nelle scelte. Per quanto riguarda i concerti, come ti comporti? Le date, le fissi te, o qualcuno ti dà una mano? Sono da quando ho iniziato a fare concerti miei, quindi non sono tanti anni, perché prima erano cover, quindi certo. Siamo passati anche sotto delle varie agenzie, e da quando sono cose mie continuo a sbattermi tutti i giorni. E sono contento di farlo, perché ci credo tanto, e nonostante la mia tenera età, continuo a crederci fino in fondo, perché... Ma guarda, dimmi. Mi batto, come anche gli altri ragazzi lo stanno facendo, mi batto anche per altri che fanno, certo, musica d'autore. Certo. Come se fosse capito un esempio. Citiamo allora la tua nuova produzione, quella che hai prodotto di recente. Non ho capito, come si chiama? Quelli che hai prodotto di recente, un cantautore, abbiamo appena citato. Allora, sì, Gianluca, parlavamo di Gianluca Fantelli, esatto, che abbiamo salutato prima, grazie Agostino, per in regia. E, allora, come è scata la comunione? La comunione fra noi. Te e Gianluca, sì. Esatto. Guarda, lui è un cantautore micidiale, che scrive delle cose, e se vuoi, lui capirà più semplici delle mie. nel senso arrivano, ti arrivano in testa, tu senti un brano suo e ti rimane veramente in testa subito, non dopo due volte, dopo una. Ho capito. Quindi è veramente magico da quel punto di vista. E cosa ci hai messo te allora? Allora, io cosa è successo? Un'amica in comune ci ha fatto incontrare, lui prima si avvaleva della collaborazione di altre persone, mi ha chiesto la collaborazione come parte artistica, non come arrangiamento finale, ma come musiche, melodie e alcuni testi così, e per organizzargli la band. Io ho accettato e è venuto fuori questa cosa fantastica, si chiama Sempre, il nome del CD, e ci sono dei brani anche live che abbiamo fatto il 20 dicembre all'Europa Auditorium, che è un teatro, il teatro più grande dell'Emilia Romagna. E io con lui ho scritto la musica in tutti i brani, sono stati arrangiati da Marco Dirani, che dicevamo prima, che sarà l'arrangiatore anche del mio. Quello che state ascoltando è Un Quarto di Secolo, che canta Gianluca, e io canto il ritornello, faccio dei controcanti, così se vogliamo ascoltarlo un po' poi direte voi. Potevo vederti nascere, se solo lo avessi saputo. Potevo vederti crescere, ma di certo non avrei capito. Così sei arrivata da niente a indicarmi una strada tortuosa per cambiarmi il presente, evitarmi una vita noiosa. Anche se a volte cambi le stelle, tira fortissimo il vento, un fuoco infernale mi brucia la pelle e non può più essere spento. Tra poco arriverai, la porta è sempre aperta, e quando ci sarai ti parlerò di me. Tra poco arriverai, la porta è sempre aperta, e quando mi vedrai mi parlerai di te. Un quarto di secolo, in fondo è davvero volato. Non mi sembra nemmeno di averti aspettato. Ma scendeva la neve, coi suoi fiocchi brillanti, accarezzandoti il lieve. Tu, preziosa come gli amanti, è bastato un istante per dividere tutti i pensieri, cancellare i peggiori e tenere soltanto i più veri. Hai trovato per terra le chiavi di tutta una vita, scatenato una guerra, generato una storia infinita. Tra poco arriverai, la porta è sempre aperta, e quando ci sarai ti parlerò di me. E dopo te ne andrai, la porta è ancora aperta, ma so che tornerai, e prima o poi resterai qui. Eccoci qua, ci siamo. Adesso mi spieghi in 30 secondi, perché hai scelto, avete scelto questi suoni moderni assieme a Gianluca? Perché lui è moderno, ha una voce veramente fantastica, calda, e esce, cioè, tutto quello che dice sembra che appaia lì. E quindi abbiamo dovuto scegliere qualcosa di immediato. Certo. Dovuto scegliere, cioè lui la melodia ce l'ha già in testa, è l'unica persona che conosco che non suona nessun tipo di strumento però. E ti canta i brani già divisi come devono essere. Questo è una cosa incredibile. E poi è un va, dono di natura, questo. È un dono di natura. E poi va a ritmo, va a tempo. In studio mi ha registrato alla prima, il primo take, tutto perfetto con lui. Quindi per dirti la caratteristica che ha dentro, il coraggio che ha, la forza e tutto quanto. Il brano che c'è sotto adesso è Sarò Sempre Con Te, l'abbiamo presentato da Paolo Bonolis il 24 aprile a Senso della Vita. Certo. e ci ha portato fortuna perché abbiamo avuto molto, molto risponso, insomma, quindi speriamo che vada sempre bene. E c'è adesso anche su Facebook un gruppo che dice vogliamo Gianluca Sanremo perché dobbiamo andarci, insomma, quindi vedete anche voi di fare qualcosa. Esatto, allora sì, esatto. Maurizio, lo diciamo pubblicamente, sì, certo, certo. Appena finita la trasmissione il pezzo che in sottofondo qui che hai presentato lo metteremo nella nostra programmazione. Grazie, ecco, sicuramente. Così, sicuramente grazie, andrà grazie. A rotazione, andrà anche questo, quindi con Gianluca Fantelli e appunto Alberto Despini, con Sarò sempre con te, va bene? Così grande, facciamo grande. Onore anche a questo grande artista, appunto, che magari lo inviteremo anche qui. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Gianluca, se ci stai ascoltando, prendi nota. Prendi nota, che lo accompagno, anche, lo accompagno io, quindi. Ah, ecco, perfetto. Vengo volentieri. Ben volentieri. 15 minuti, già, Alberto, cosa fai? Quello che vuoi. Allora, minuti. Devo dedicare qualcosa ad Agostino, ecco. Perché non mi hanno fatto portare sulla bottiglia di vino perché siamo delle persone serie. Allora, allora mi ha detto... Anche se qualcuno dice un momento di Sangiovese, va bene la salute. Va bene, sì, anzi, anzi. E, un brano di Henley and Frey, non so se i cognomi sì, li conoscete, sì, Don sì. E Glenn, vi saggio tutti, e, perché Agostino che stava cercando un po' di me sul web ha sentito questo, sì, questa canzone era interpretata da me, ha detto ma sarà un altro brano che ha lo stesso titolo, invece ero proprio io che cantavo a Castrocaro e poi anche Radio Buon'estate me l'hanno fatta fare, ecco. E visto che di quel gruppo è quella che preferisco, io ho fatto quella, tra l'altro sotto sul web, su YouTube c'era, io cantavo su una base, la base è stata fatta da Doctor Studio, sempre da Michele Turchi, che salutiamo. Ciao Michele. E il pianoforte è stato suonato da Alberto Linari, grandissimo anche lui musicista, che salutiamo. Alberto. Ciao Alberto, non va lo bene. Conosciamo ma lo salutiamo. Suona la pianoforte veramente bellissimo. Il titolo della canzone non lo diciamo perché tanto la conoscono tutti. Esatto, andiamo col carro. Ok. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding faces so long now. Oh, your hard one. Oh, no, that you got your reason. The swings there are pleasing you and not you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She beat you, she's a bull. You know the queen of hearts is always your best bet. But things to me, some fine things have been laid upon your table. But you only want the one you can get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, you're driving you home. And freedom, oh, freedom, where there's just some people talking. Your prison is walking through this world all along. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You lose in all. Feeling goes away. desperado. Why don't you come to your senses? Calm down from your faces. Open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better be somebody love you. You better be somebody love you before it's too. È finito. Ti giuro, io l'ascolterei 50.000 volte al giorno. Ho sbagliato qualche accordino perché è tutto un po' così improvvisato. No. Ma la vita senza improvvisazione, capita, chiaramente. Beh, Desperado degli Eagles, nella versione di Alberto, fatta bene, quello è importante. Una sua grazie. Versione. Bella. Grazie di cuore, Alberto. Grazie a voi. Ok, Alberto, abbiamo 10 minuti. Adesso facciamo sentire qualche cosa ancora nuova tua, sì, o aspetta, qualcosa aspetta, vecchia. Prima di salutare, però, non abbiamo ancora detto prima che ci dimentichiamo. Certo. Le tue informazioni, le tue coordinate, Alberto. Allora, il mio sito, che è, diciamo, nuovo, ho fatto da poco, deve essere ancora aggiornato, ma è già funzionale. È funzionante, è www.albertodespini.it. Poi sono raggiungibile su MySpace, su Facebook, su MySpace per le canzoni, su Facebook per le stronzate, però praticamente potete comunque scrivere ovunque, ecco. Su albertodespini.it c'è la biografia, insomma, c'è quello che ho fatto, un po' di foto, così. Se qualcuno vuole le tue canzoni? Se qualcuno vuole le mie canzoni, su MySpace si possono ascoltare. E i CD li ho fortunatamente venduti tutti. Bello così, quindi hai esaurito il vecchio CD. Sì, quindi l'unica cosa da fare è scaricarli da internet, che ci sono su iTunes. Quindi se andate su iTunes e digitate Alberto Despini potete scaricare i miei brani. Neppure i concerti si trova più sul tuo disco? Sempre i miei concerti. I concerti si troverà il disco nuovo, perché il disco vecchio l'ho proprio esaurito. Beh, una cosa molto positiva. Molto positiva. Se andate sempre sul sito albertodespini.it, trovate nella sezione concerti, trovate i live che faccio. Certo. Sia con Serena qui presente, perché abbiamo anche un duo musicale che si chiama D-Side. Trovate i live miei, dei brani d'autore, così, e trovate anche i live con Gianluca Fantelli. Perfetto, quindi praticamente come ti dividi nei live, così velocissimamente parlando, con Serena, con Gianluca? Allora, le braccia le lascio a Genova, poi dopo le gambe le porto. No, è una divisione molecolare, in quanto siamo fortunatamente molto molto molto impegnati, perché anche Serena adesso canta con Gianluca, per cui siamo molto in giro, meglio così. Prossimo concerto? Prossimo concerto abbiamo domani sera, io e Serena siamo a San Pietro in Casale, al Palladino Caffè. Poi sabato a Pordenone siamo con Gianluca Fantelli, a Corde Nons. Domenica alle 5:30 siamo a Budro di Bologna, sempre con Gianluca Fantelli. Un appuntamento molto importante come data del live, sempre 2011, al Teatro Consorziale di Budrio. E questi sono i prossimi, certo. Il 19 ottobre, mercoledì prossimo, al The Good Station, sempre col progetto mio, Alberto Despini, che è a Castelmaggiore, Bologna. Benissimo. Ok, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo in studio e ci salutiamo. Ok, sì. Cosa ci fai ascoltare? Allora, io vi farei ascoltare un altro inedito, per farvi contenti, tanto nella vita bisogna fare cose nuove. Questa si chiama Ragionevole Sospetto e sarà presente anche questa nel nuovo album. In due parole vi racconto, sì, diciamo, il perché l'ho scritta. Volevo appunto fare qualcosa tipo di fiabesco, quindi un'immagine un po' particolare. È la storia di un pirata che lascia tutto dietro di sé, intraprende un lungo viaggio verso il mare e decide di farla finita, quindi decide nella sua mente di buttare il corpo al mare. Poi nel momento in cui pensa a tutto quanto, quindi su queste voci, queste isole, queste donne che si allontanano da lui, lui rimane solo con se stesso, dice: affido l'anima al corpo, chiedo scusa al mare, però se devo affidare l'anima a Dio, ok, però l'affido con ragionevole sospetto. Luna, Dio sera. Blu Radio Sera. Impercettibilmente arresto quel che non vale più spostare. Ignoro quei respiri attenti, ignoro voci disarmanti, ma immagino immagini di lei e affido l'anima, e affido l'anima mia, e affido l'anima a Dio con ragionevole sospetto, e il corpo al mare, e il corpo al mare. Inevitabilmente perdo quel che non riesco più a salvare. Ignoro isole attraenti, ignoro acque invitanti, ma immagino, immagini di lei, e affido l'anima, e affido l'anima mia, e affido l'anima di al mare, e il corpo al mare. Niente è ragionevole, niente è ragionevole, sì, niente ragionevole, sì, niente ragionevole. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, bel pezzo. È sempre corollato dai piccoli segmenti percussivi della Serena. Esatto, esatto. Intorno ci deve essere sempre qualcosa di... Sì, qualche piccolo cenno, qualche piccolo movimento. Piccolo movimento qualche... dolce per rendere, esatto, la canzone più bella. Esattamente, proprio così. Alberto, dobbiamo lasciare il posto ad Alberto. Un altro Alberto. Un altro Alberto. Alberto vs. Alberto. Ciao Alberto. Alberto alla seconda. Alberto alla seconda. Allora, siamo arrivati alla fine, Alberto. Noi innanzitutto ti ringraziamo di aver aderito alla richiesta nostra, insomma, di venire qui in studio a farci ascoltare la tua musica, la tua voce. Troppo buoni, perché quando c'è da andare in radio, prima di tutto io sono veramente, veramente carichissimo, perché è una cosa che mi piace veramente fare, parlare, insomma. A parte di me, comunque, vengono fuori cose molto belle e viene fuori proprio un confronto di pensiero sano. E poi, insomma, vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità di parlare della mia narrativa, della mia musica, di tutto quanto. Beh, ma questa è la prima parte, però adesso ci sarà la seconda, giusto? Ci sarà la seconda, anzi, che sarà sempre in avanti, sempre crescendo, perché non bisogna mai fermarsi. Guarda, quindi, che ti aspettiamo veramente qui. No, veramente, io... Siamo in contatto io e te, quindi... Assolutamente. Quindi ci sentiamo. Grazie, allora, Alberto. Salutiamo anche la Chiara, che oggi ha sostituito indegnamente la fotografia. Ho fatto il fotografo. Ciao Chiara, grazie del pensiero, grazie. Veramente. Doveva essere, sì, ma purtroppo esatto. Non ce l'ha fatta. Ringraziamo anche... Serena. Serena, grazie, ciao a tutti. Serena, anche a te, l'invito vale esteso anche a te, insomma, quando vuoi venire. Sì, assolutamente, appena sarà pronto o comunque accompagno lui. O... Certo. Mio, vedremo. Mi dispiace per Alberto, ma anche il mio Alberto apprezza la tua voce, quindi... Molto bello, cioè, ma da Alberto Alberto. La sana competizione combatte. Ma quindi lo stavi ascoltando? Certo. È il nostro direttore artistico, non è giusto, è la sua funzione. Va bene, noi ci salutiamo Alberto, per quanto mi riguarda do l'appuntamento alla settimana prossima, giovedì ci sarà, forse lo conosci, Andrea Grossi. Sì. Viene qui lui con la sua musica e buon proseguimento, ascolti i programmi che continuano con Alberto Prisco, la sua classifica di musica rock. Buonasera Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Di nuovo grazie ad Alberto De Spini e a Serena. Grazie tante, grazie. E buon ascolto a tutti. Ci salutiamo con cosa ci salutiamo? Ci salutiamo... Fai un live. Cosa c'è? Scusa un attimo che la regia mi sta chiamando. Tutto in diretta. Ah ok, tutto in diretta. Sì. Pensavo che la mettessi... Se vuoi, come vuoi. Dimmi. No, sì, no, che... fai dal vivo. Ma che sì. Fai dal vivo. Ok, cosa ci saluti? Cosa ci proponi? Allora, vi propongo il primo brano che nel disco era il più cattivo, qua chiaramente non sarà così cattivo, ma se volete posso magari spaccare qualcosa mentre canto. E si chiama Il silenzio degli dèi, è andato anche nel 2009 su Radio 105 per 2 settimane, insomma, ci accontentiamo perché si parte, se la settimana non c'è neanche il mese. Giusto. Ok. Okay. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Riconosco ora il sole su me, sopravviverà. Faccio mio tutto il rumore che dà il silenzio degli dèi. Il silenzio. Ascoltare via con questo vento che non si stancherà, che mi cullerà. Stancherà con questo vento che non si stancherà, che mi cullerà. Mi cullerà. Grazie, grazie. Buona serata a tutti.